Il mio obiettivo è mandare in merda la vostra trasmissione, voi cercate di fare con gli altri. Lei mandi in merda. Volete mandare in merda gli altri? Mandate in merda voi! Io sono più bravo di voi! Sì. Vi mangio vivi! Certo, certo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. È un dolore immenso e niente più, niente da dire. C'è chi piange, chi bestemmia. Albano è antifascista! Albano antifascista! Non ce lo volemo! Vergogna! Non ce lo volemo! Puzza di sigaro che ancora resta sospesa tutta intorno. Ciao! Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! La fila avanza, funerale per sigaro e banda. Funerale privato officiato, quello di Pripke, dalla comunità dei Lefevriani. A voi non dirà nulla questa parola, i Lefevriani. Sentite un prete, probabilmente quello che poi officerà la messa o che sta officiando questa messa privata per il signor Pripke ad Albano Laziale, che dice: è peggio la comunione data a Luxuria. Penso che è morto cattolico, insomma, con la fede cattolica, e al di là del giudizio della storia, i funerali si fanno. Trovo molto più grave l'aver dato la comunione da parte di Monsignor Bagnasco a Lussuria. Questo è molto più grave. Più grave del funerale di Pripke. La solita storia, tromboni, trombe, la fila avanza, funerale per sigaro e banda. Lo sai, Davide, che io francamente questa cagnara non la capisco, cioè questa cagnara che sta accadendo, che si sta svolgendo ad Albano Laziale. Quale cagnara? La cagnara messa in piedi da non so chi. Vuoi dire la cagnara di chi sta celebrando il funerale del... Ma perché la cagnara? Scusa un attimo, ovviamente figuriamoci. No, mettiamo se io posso, posto, aspetta un attimo. Avremo tempo. Aspetta, le cose a posto, avremo tempo. Avanti. Quella salma, sì. Quella salma, sì. Quella salma, sì. Non deve avere pietà. Tregua. Quella salma non deve avere tregua, perché quel morto, che ora è morto, non ha dato tregua ai 6 milioni sì, di ebrei che sono stati uccisi. Sì. Dunque ha fatto male il prefetto di Roma. Malissimo, malissimo. E l'eccidio delle fosse ardeatine è una vergogna per tutti gli italiani. Perché gli italiani... Va bene, siamo d'accordo, adesso non fare la tua predica. Non fare la tua predica. Italiani. No, ma ho capito. Quindi benissimo. Quell'assalto a quel carro funebre, sì. Va capito quell'assalto. Vabbè, va capito, va compreso. Sei d'accordo nel dare l'assalto al carro funebre, nel prendere a calci una salma? Ma sei d'accordo? Beh, sei assalto. D'accordo o no nel prendere a calci una salma? Sì o no? Assalto. Sei d'accordo o no nel prendere a calci capisco una salma? Quella rabbia. Capisco quella Luca, rabbia. Anche tu, se fossi stato là, perché non sei andato capisco a dare calci? Perché non sei andato lì a dare calci alla salma di Pripke? Io non avrei preso a calci la Ah, vabbè, facile non così allora, fatto, facile. Perché non sono una persona, perché facile, sono una persona, facile, facile. Ma sarei andato lì con i cartelli a urlare il mio sdegno nei confronti. Va bene, ho capito, stai zitto adesso. Le nubi sparse sulla bassa Correggio. La gente cioè, Pripke ha vinto. Pripke ha vinto perché ha radunato un po' di gente che danno calci alla salma. Ha vinto Pripke. Cioè, avete fatto vincere Pripke con questa storia qua. Diciamo la verità. Non si capisce perché un gruppo di amici, di parenti o non so chi, di un gerarca, un ufficiale nazista, un personaggio minore, non possa celebrare privatamente dopo i rifiuti di cittadine, chiesa cattolica, vicariato di Roma, non possa celebrare una cerimonia privata in un istituto privato. Non si capisce per quale motivo non si possa fare. Non si capisce. Fanculo alla strada, al guardrail, alle macchine, al mondo, alla puzza di sigaro che ancora resta. A proposito di Lefevriani, quelli che hanno officiato questa messa privata, sentite cosa ci ha detto ieri padre Abramovic. Pripke un innocente dietro le sbarre. Ovviamente noi condanniamo queste cose, per carità. Oltre settantenne dietro le sbarre, innocente. È uno scandalo, è uno scandalo come è stato trattato Priebke, e questo è lo scandalo dell'Italia, non il modo invece così dignitoso con il quale sono raccolti i rifugiati a Lampedusa. Vergogna! Beh, adesso, signor Don Floriano Abramovic, uno ride, ma questo signore sostiene che è stato perseguitato mentre vengono accolti i migranti di Lampedusa. Fa parte dello stesso gruppo che ha officiato la messa, che ha fatto la messa per Priebke. Sì, ma non chiamarlo Don. Vabbè, Don, quello che è, dai, su. No, perché diffami la Chiesa Cattolica, che è fatta di bravissime persone, diffami i veri preti, non quello con le frediani. I lefrediani sono fuori dalla Chiesa. Non puoi fare questo. Aspetta un attimo, intanto su un altro fronte si è creata una strana coppia, quella tra Renato Brunetta e Beppe Grillo, tutte e due insieme contro lo stipendio di Fabio Fazio. Un nuovo contratto sembra di oltre 5 milioni di euro. Brunetta. Mi piacerebbe sapere, anche qui senza nessun guardonismo di nessun tipo, ma che ogni trasmissione, nella sua titoli di apertura, si dicesse quanto costa, quanto vengono pagati i singoli giornalisti o i singoli collaboratori di quella trasmissione, che share ha fatto magari la settimana. Grillo è sempre sulla Rai, ma qui c'è, possiamo scegliere qualsiasi cosa. La Rai, 7.000 dipendenti, 200 milioni di deficit, e ci teniamo tre Rai per farci prendere per il culo. Ne basta una, senza politica e senza sponsor dentro. Il tempo si è fermato stavolta. Vabbè, alla fine Fazio che ha detto, se vuole venire a Sanremo, perché Grillo ha scritto andremo a Sanremo a cantare, venga, proponga due brani. In realtà Grillo che canta c'è già stato, E one, and two, e one, two, three, four. Mi sono fatto un chinotto on the rocks. Oh, baby, baby, American Pie. Sono stravolto, mi scoppia New York. Oh, baby, baby, American Blue. E aria, non ce la faccio più. Roba da pazzi, la mafia non c'è. Oh, baby, baby. Già pronta la canzone di Grillo per Sanremo. Probabilmente Grillo vincerebbe a Sanremo, cioè vincerebbe a mani basse. 800 24 00 24. Questa è la Zanzara, con noi Sandro Gozzi, Partito Democratico. Buonasera. Buonasera a voi. Come sta? Stanchissimo oggi. Ma che ha fatto? Chilometri per la maratona? Si sta preparando per qualche gara, no? A parte dato che alle 6 di mattina ovviamente stavo correndo, e poi ho corso anche per tutta la giornata. Sì, faccio Amsterdam domenica. Amsterdam domenica? Beh, allora la maratona di Amsterdam domenica. Dobbiamo andare sotto i 3:27. Avviso ai naviganti, signor Sandro Gozzi, Partito Democratico, domenica in trasferta ad Amsterdam per cercare un personale di sotto i 3:26. Sotto i 3:27, sarà difficile. L'ho fatta a Firenze, perché mi porta fortuna a Firenze. 3:27, quindi non andrai in un bel coffee shop dopo la maratona? No, certamente non prima, ma neanche dopo. Sono perché con la dopo? Mia famiglia, una bella cannetta, dopo ci può stare pure. Ma no, finché non. Guardi, io non fumo, ma magari potrei fumare la prima volta, se riusciamo mai a legalizzare le droghe leggere in Italia, che mi sembrerebbe una cosa molto molto positiva. Cioè in Italia ci dovrebbe essere i coffee shop, secondo te, Sandro? No, penso però che bisogna legalizzare, bisogna portare il tema delle droghe leggere, soprattutto dato che se ne parla tanto. Sì. Abolire il carcere per le droghe leggere, cioè la Sigi Giovanardi. Allora, in quel caso, se riuscissimo a farlo per festeggiare, potrei anche fare cosa che non ho mai fatto. Però scusa, secondo te è giusto che uno possa fumarsi uno spinello in pace senza essere perseguitato dalla giustizia? O io, no? Io credo, cioè, si potrebbe carcere, pensare, che ne so, io si potrebbe. Credo che il carcere che c'è in Italia per la detenzione di droghe, di modo e quantità di droghe leggere, sia una barbarie. Sì. E che sia anche una delle cause, lo sappiamo, del sovraffollamento. Però, quindi scusami un attimo. Che sia sbagliato, anche perché, cioè, non serve a nulla tranne aiutare trafficanti, spacciatori e via dicendo. Ma io sono d'accordissimo, però secondo te uno. Non lo dico io, lo dicono dei rapporti ONU. Ma lo so. Però scusami un attimo, Sandro, se uno si mette a coltivare della marijuana in casa, per esempio, ti pare possibile che uno debba avere paura di essere, cioè per uso personale ovviamente, cioè tu lo faresti? Siamo alla legge Fini Giovanardi, alle modiche quantità. Io ritengo che il carcere della gente per questo sia profondamente sbagliato, anche perché la sanzione del carcere non serve. No, d'accordo, però se uno legalizzare si faccia una sanzione amministrativa, ma il carcere è assurdo. Tu sei a favore della legalizzazione delle droghe leggere? Sì. Allora, è possibile che uno, dovrebbe essere consentito il fatto che uno coltivi marijuana in casa o no? Secondo me sì. Al momento in Italia non solo non è consentito, sì, ma rischia di andare in galera. Allora, Sandro Gozi, non si capisce chi appoggia il Partito Democratico alla segreteria, forse ce lo vuole dire stasera. Qual Matteo è il... Renzi, da... Matteo Renzi. Ah sì, da una settimana. Da quest'estate, scusa, mi era sfuggito perché in questo bailam non sei siamo uno troppi. Di non sei uno di quelli che è salito sul carro? No, io in beh, realtà, un po' sì, perché non eri con Renzi, prima, o sbaglio? Non sei stato con Renzi? No, io avevo tentato, come vi ricordate, non so se ne avevo parlato con voi, di candidarmi io stesso, sì, poi sì, per 21 firme non ci riuscii. E non feci campagna per nessuno, alla fine Bersani mi sembrava il migliore per tenere insieme una coalizione che invece si è rivelata fallimentare. Però già all'epoca dissi che se erano le primarie per il segretario, lo dissi in varie interviste, avrei comunque anche l'anno scorso votato Matteo Renzi. Poi obiettivamente... Però tu che sei uno di quelli che ha proposto l'amnistia e l'indulto, Sandro, sì, ma questa posizione di Renzi la condividi o no? No. Ma guarda, in realtà, insomma, io dopo le mi sono riguardato di nuovo anche il video di Bari, cioè vabbè, adesso non cercare di cambiare, ha detto chiaramente che la mia sera indulto non si deve fare, probabilmente per questa uscita non si farà, perché non ci sarà mai la maggioranza. Allora, no, penso che quello che abbia ammazzato, se mai ha ammazzato qualcuno, la proposta di amnistia e indulto sul quale lavoriamo da anni, vorrei dire. Chi l'ha ammazzata? Se mai è stata Quagliariello oggi o ieri, insomma, ieri, quando ha detto... ma non credo, dai. Ma certo, ma secondo me sì. Secondo me la Quagliarello Renzi, l'accoppiata è una tomba nel dibattito sull'amnistia, posto che io continuo a ritenere che amnistia e indulto nel quadro di una più ampia riforma della giustizia delle carceri sia un tassello importante. Allora, nel momento in cui Renzi diceva l'indulto di per sé non basta, io sono d'accordo con lui. Ma no, lui dice che, lui dice che il popolo non capirebbe che la legalità è la legalità, insomma, ha detto no alla amnistia e indulto, dai, non giriamoci intorno, dai, così. Allora, posto che io ritengo, e lo ripeto, che... non è sbagliato essere contrari, no, anche su un punto rispetto a... ma infatti l'ho detto, ho fatto un paio di interviste, insomma, e la mia posizione è nota perché sono anni che mi sto battendo per questo. All'inizio di questa legislatura avevo presentato, assieme a un pacchetto di proposte di anche riforma della giustizia, anche quello dell'amnistia. Però anche il problema della legalità. Io vorrei dire questo, il primo ad essere illegale in Italia è lo Stato italiano. Sulle carceri, perché va bene, la Repubblica italiana sulle carceri sono 12 anni sì, che si fa condannare, anzi sono 30 anni che si fa condannare dalla Corte Europea dei Diritti Umani. Va bene, siamo d'accordo su questo. Sono 12 anni che è sorvegliato speciale, quindi... Comunque, chi ha affossato, secondo te, chi ha affossato? Ai ragazzini sì, bisogna che lo Stato rispetti la sua legalità. Cosa chi ha affossato l'amnistia e l'indulto? Quagliariello. Quelli che sono contrari all'amnistia e l'indulto sono dei mezzi criminali. Well, now, there must be. Eccoci qui, caro David, con Sandro Gozi, Partito Democratico, sostenitore di Matteo Renzi. E com'è che viene chiamato da Travaglio? Credo il Prodino, no, Gozi? Il Prodino, sì. Il Prodino, no, non ha apprezzato quando dissi che probabilmente con la fine dell'era, insomma, che si avvicina il tramonto, più o meno vicino alla fine, più o meno vicino di Berlusconi, anche tutti gli anti-berlusconiani da combattimento, protagonisti mediatici di questi anni, probabilmente sarebbero stati un po' nei problemi. Lui non ha cioè, è finito anche lui con Berlusconi? Penso proprio di sì. Non ho capito, perché Travaglio, tra l'altro, ti ha contestato sulla questione dell'amnistia, dell'indulto, no? Sì, no, questo è più serio, però poi devo dire che sia sul sito che sul giornale il Fatto Quotidiano mi ha dato la possibilità di replicare, e anche loro hanno preso atto che la mia proposta, quella che ho fatto in marzo, non si applica ai reati fiscali, non si applica ai reati sessuali, non si applica ai reati punibili con più di 4 anni, quindi non si applicherebbe alla sentenza media. Però scusami, devo Sandro, dire che mi hanno dato diritto di replica, no, vabbè, dunque questo tu... devo dire che a vantaggio loro è giusto dirlo. Però secondo te lui Travaglia uno di destra? Atteggiamenti boh, poi destra, sinistra, vabbè, atteggiamenti comunque. Atteggiamenti molto assoluti, insomma, molto assoluti, cioè, che costruisce, distrugge le persone, così, insomma, a volte senza poi approfondire molto, però. Ma vorrebbe, secondo te, fare giornalismo, a me non piace. Secondo te vorrebbe che la gente marcisse in galera, cose di questo tipo, cioè... Ah beh, su quello, insomma, che ci sia una forte componente di giustizialismo, cioè, del resto io credo che... Cioè vorrebbe che la gente marcisse un po' in galera? Ma non lo so se vuole questo. Io credo che già purtroppo in Italia ci siano almeno 30.000 persone che marciscono in galera perché le carceri italiane sono in sovraffollamento per 30.000 persone. Però tu dici persone, a lui non gliene frega niente di questa roba qua, Travaglio. Ma leggendo le sue reazioni sull'amnistia, il fatto che una volta, posto che non la vogliamo applicare per quanto riguarda il caso Mediaset a Berlusconi, mi sembra che, non ho capito quali sono le alternative, visto che abbiamo 6 mesi di tempo per risolvere finalmente questa cosa. Le alternative a depenalizzazione di come sentite carceri non le ho capite da Travaglio, no. Parenzo, ci sei o no? No, però voglio dire, sì, certo che ci sono. Voglio dire, a questo punto Renzi ha la stessa posizione di Travaglio, però. Mi sembra proprio di sì, tant'è che c'è stato un avvicinamento. Questo è vero. Questo è innegabile. C'è forse una nuova coppia è nata, Travaglio-Renzi, o no? Così, sarebbe preoccupante per te, Sandro? Così mi fate molto preoccupare. Però guarda però, che amico mio mi sa che tra l'altro, secondo te chi è che ha mandato l'amnistia e l'indulto, caro il mio amico Gozzi, che è una brava persona, bisogna dirlo. L'amnistia e l'indulto Renzi ha fiutato che non portano voti, anzi creano allarme. E quindi quello lì, e quindi niente, Gozzi, è così. Non ti farebbe paura una coppia Travaglio Renzi? No, la considero contro natura. questa non è male, ma un po' è vero però, poi non ti scordare non ti scordare che il fatto ha fatto una battaglia contro Renzi pazzesca. Ma scusami, ma sì, ma sono tutte e due contro il finanziamento pubblico dei partiti. È vero. Tutte e due contro la io trovo oggi più punti in comune tra Travaglio e Renzi che non tra Gozzi e Renzi. Sì, soprattutto da quando Renzi non spara più sui sindacati, più con Marchionne, eccetera, eccetera. È vero, ci sono molti più punti di contatto. Più punti. Voglio sapere da Gozzi una cosa, ma questa storia che qualcuno avrebbe detto indagate sulla vita privata di Renzi l'hai letta? No, chi l'ha detto? A Bari qualcuno, dei giornalisti hanno, cioè alcuni esponenti del Partito Democratico avrebbero detto ai giornalisti di indagare sulla vita privata di Renzi. Alcuni del PD hanno detto questo? Sì, alcuni hanno detto questo, alcuni anti-renziani evidentemente. Guardi, solo se qualcuno del PD va dai giornalisti a dire indagate sulla vita privata di Renzi, deve essere qualcuno dei 101, solo quella gente lì può dire delle. Ma a proposito, recentemente. No, ma come si fa in un partito? Così. Spero che non sia vero. No, è vero. Nessuno l'ha smentito. Non è quello il modo di stare insieme in un partito, che per me è innanzitutto una comunità di donne e di uomini che condividono certi valori. Scusami Sandro, credo che Matteo Renzi, ma non ha bisogno certamente della mia difesa, ma abbia nulla da nascondere. Ma soprattutto come si può affrontare un congresso in questo modo? Voglio dire, mica è questione di vita e di morte. Qua dobbiamo avere il miglior segretario per ricostruire il partito. Però scusami Sandro, ma a proposito di questi 101, possibile mai che non esca fuori un maledetto nome? Recentemente Prodi ha detto ho capito tutto, che non sarei diventato Presidente della Repubblica quando ho avuto una telefonata con D'Alema. Secondo te lui è il grande burattinaio di questi 101? Una parte di questi 101 fanno capo a D'Alema, sì o no? Diciamolo esplicitamente. Non lo so, ma è quello che ha detto a quel giornale Prodi, lo disse anche a me al telefono quel giorno stesso. D'accordo, cioè che dopo la telefonata, dunque secondo te D'Alema è uno dei responsabili, però diciamola chiara, c'era una valutazione di forte difficoltà da parte di Prodi rispetto alla sua candidatura in quelle ore, questo è sicuro. Una forte perplessità da parte di D'Alema? No, nel senso che Prodi la vedeva in quelle ore molto molto molto difficile. Questo non è una novità, l'ha detto Sera. Quello che ha detto il Corriere della Sera lo disse anche a noi in quelle ore. Comunque l'amnistia e l'indulto sono state sepolte secondo te da Quagliariello, secondo me da combinato disposto Quagliariello-Renzi? Io credo che Quagliariello abbia fatto molto più di Renzi, e credo che comunque la battaglia dobbiamo farla, continuare a farla. Ma Berlusconi, secondo te, se andasse in galera ti dispiacerebbe? Ma vedi, io il punto... No, ma sì o no, ti dispiacerebbe o no? Ma guarda, dal punto di vista di un cittadino condannato bisogna scontare la pena. Punto di vista umano, insomma, non è che io non sono... ma è un privilegiato a non finire in galera rispetto ad altri paesi? Non ho capito, scusa. Rispetto ad altri paesi, è un privilegiato a non andare in galera? Ma per i reati che ha fatto, secondo te? Rispetto ad altri paesi? Berlusconi è un cittadino che è stato condannato. Oh, appunto, rispetto ad altri paesi che hanno leggi più gravi. Però collegare la questione dell'amnistia, per quanto mi riguarda... Sei ancora a casa, Emo? Ecco l'indimenticabile Rino Gaetano. mio fratello è figlio unico, perché non ha mai trovato il coraggio d'operarsi al telefono. Altro che figlio unico, suo fratello è il giornalista Giuseppe Cruciani. Ammazza, il conduttore di Radio Belva è spiccicato al grande Rino. Infatti, tanti suoi ospiti a quello zanzarone di Cruciani vorrebbero dirglielo: non te regge più! Ma era Piero questo? Era Chiambretti? Era Pierino, sì. Vabbè, Rino Gaetano è vecchia comunque, me l'hanno detta in... Però un po', l'unica cosa che è che è morto Rino Gaetano. Allora che vuol dire, scusa? No, voglio dire, l'unica cosa è che appunto... Forse cioè, me la vuoi tirare? Non ho capito. No, non io, che ti devi toccare il ferro ovunque, dai. Ma no, ma che me ne frega per ma queste come, cose. Il paragone con i morti. Senti, dai. Senti Ripa di Meana, eh? Ripa sì, di Meana. Quello sentite, infatti di questo volevo parlarvi decisamente. Aspetta, aspetta, la coppia... E anche di telefonare alla signora Marina un attimo. Aspetta un attimo, senti, senti. Ti posso dire una cosa? In questa casa ci avevamo... Per dirtene una, 3 utenze telefoniche, ora ne abbiamo una. Avevamo 2 macchine, di cui una importante, una Mercedes, siamo con la piccola Panda, è un motorino. Poi mi telefonano continuamente, faccia la beneficenza. Ma non si può fare la beneficenza, me la devono fare a me. Confesso che in certi casi mi preoccupo anche del mio avvenire. Però a un certo punto si scopre che il signor Carlo Ripa di Meana prende 12.000 euro di pensione, capito? Facciamo i conti di queste pensioni. Dunque, la migliore è quella di commissario, circa 6.000 euro. Europarlamentare 2.800. Poi ci sono le due regioni, circa 2.000. E l'INPS mi fa, pare che sia 600-700. Il tutto, un totale che è intorno, ora vado a memoria, ma intorno a 12.000 euro. Hai capito, amico mio? Amico mio! Avevamo la Mercedes, adesso la Panda, la beneficenza la devono fare a me. Poi si scopre che la coppia Ripa di Meana Marina e Carlo Ripa di Meana, anzi lui incassa con un cumulo pazzesco e direi anche vergognoso, 12.000 euro di pensione. Senti ancora che dice il signor Carlo Ripa di Meana. Sa che volevo chiedere anche della pensione da ex parlamentare. Cioè come commissario o come ex parlamentare? Sono stato per 10 anni deputato europeo e ho una pensione per una legislatura, perché la seconda non versai le quote. Durante il periodo da commissario niente pensione, perché quello è un incarico... No, c'è una pensione di commissario europeo di cui usufruisco e che considero la fonte migliore del mio reddito di pensionato. Beh, un pensionato direi, no? Scannato, come si direbbe a Roma. La signora Ripa di Mara dice: un tempo avevamo la Mercedes, adesso la Panda. Vabbè ragazzi, gli insulti a dopo, eh. Titoli del TG3. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Il governo vara la legge di stabilità, Letta basta indiscrezioni, forse ridotti i tagli alla sanità, Confindustria serve un segnale forte per la ripresa. In arrivo la nuova tassa sugli immobili, si chiamerà Trise, sostituirà l'IMU, prime stime su quanto si pagherà, i comuni aliquote che non penalizzino i cittadini. Napolitano incalza i partiti, con la fiducia ha evitato un voto politico, ma il presidente ribadisce le riforme sono necessarie e a questo ho legato il mio impegno. Bondi attacca il capo dello Stato, dubbi sull'efficacia del suo ruolo. Ancora tensione nel PDL e tornano le voci di scissione. Schifani, ospite del TG3. Decadenza di Berlusconi, il PD apre sul voto palese e scontro nella giunta del Senato. La decisione è rimandata a fine mese. A sorpresa, i funerali di Erik Priebke nel convento dei Lefevriani ad Albano. Alta tensione nella cittadina laziale, pugni e calci contro il carro funebre. e ancora sbarchi di immigrati a Lampedusa in Sicilia, cominciati i primi pattugliamenti con navi, droni ed elicotteri dell'operazione Mare Nostrum. Sono come zanzare, queste ombre sulla strada e cadono le ceneri. Scusate se vi ho disturbati. Sulla strada, dove passano quei passi amari che fuggono dai mali e buttano le briciole dai bar. Siamo qui 800 24 00 24. Carla da Torino, buonasera. Buonasera, Cruciani. Dica. Volevo parlare con quell'altro signore lì che non so come... Parenzo. Allora, caro signor Parenzo, caro visto che lei vuole andare a prendere a calci la bara di questo tedesco e sputargli... No, veramente non l'ha detto, che vuole sputare, né ha detto che vuole prendere a calci. Comunque, diciamo, capisce, ecco, quelli che prendono a calci la bara di Pripkin. Beh, sì. Allora, questo signore, sì, ecco, era un militare. Cioè, posso dire che quelli che sono andati lì a protestare, a prendere a calci la salma, sono dei coglioni? Io lo dico, allora, io, sono dei coglioni. Parliamoci chiaro. Ha fatto il suo dovere, perché lui era dell'SS, sì, doveva fare quello che gli comandavano di fare, non è che si è alzato una mattina e si è messo in testa, vabbè, questo, di ammazzare. Diciamo, fosse anche così, diciamo, non è che questo qua lo salva e lo assolve, cioè, anche se anche che non è così. Ma insomma, fosse anche così, che hai seguito degli ordini, magari è così, no? Hai seguito degli ordini che infatti secondo me non c'entra nulla, ma Carla, io ti dico di andare a scannare due persone. Ho capito, ma era la seconda guerra mondiale, era la seconda guerra mondiale. Signore, mi faccia finire, quel signore non è lei, il signore lì che è un ebreo. Che c'entra che ebreo? Sono che c'entra? I più grandi usurai di questo mondo. Vabbè, ma lei è pazza, signore. Vabbè, ma lei è malata. Va bene. Vabbè, ho capito, ma lei ce l'ha con gli ebrei, punto. No, io non sono razzista. Mia madre faceva parte della Repubblica di Salò, io sono figlia della guerra, sono 70 anni. La Repubblica di Salò. Mio padre era dell'SS. Di Salò è una grande non porcheria, ha mai ammazzato invece, no? Vabbè. Nessuno. Vabbè, è finita la Repubblica di Salò, signora. È finito quel tempo, è passato, è morto. Sai con cosa posso rispondere, Cruciani? Ma gli ebrei sono sempre i più grandi che comandano il mondo. Va bene, signora. Sono loro che hanno tutti i soldi in mano. Mi sembra che l'insegnamento di sua madre è rimasto. È ben radicato. Ecco. Come dire, no? Certo che è rimasto. Infatti, lei è fascista, lei è orgogliosamente fascista, signora, sì o no? No, io sono nata nel 44 e non sono una fascista. Vabbè, ho capito, ma ha capito benissimo. Dopo la guerra. Comunque, sono l'unica nata. Cosa con cui si può rispondere a questa signora con le parole di villaggio: attacca la vecchia. Le uniche parole che si può usare per rispondere a questa. No, zitta la vecchia. Dalla regia. Zitta la vecchia. Merita una riflessione questo. No, non merita una riflessione questo. No, questo. Zitta la vecchia. No. Aspetti, signora, che gli le scatero villaggio. Con villaggio. Ma io ce l'ho fatta prima di lui, ma l'ha capito. Silenzio la vecchia. Si è... Giuliano da Verona. Ecco qui, questa è la cosa. Dica. Niente, io così pensavo che si potrebbe, come dire, fare... Sì, Giuliano, con calma, cioè con calma. Sì. Imbalsamarlo e metterlo in un, non so, in un museo della guerra o cosa. Sicuramente parecchia gente che andrebbe a visitarlo. Sì, ma io non ho capito questa cosa qua, imbalsamarlo e metterlo in un museo della guerra. Io non capisco perché un pacifici della comunità ebraica romana dice che bisogna cremarlo. Lei dice che bisogna imbalsamarlo, altri dicono che bisogna cremarlo. No, ma ho capito, Giuliano. Ma il problema che ha fatto era meglio se non lo faceva. Sì, ma il problema è che non possiamo decidere noi, o decidiamo che il corpo di Pripke è nella nostra è a disposizione dello Stato, ma se invece è a disposizione dei parenti, dei conoscenti, degli amici più stretti, loro fanno quello che vogliono con questo corpo. Non è che possiamo decidere noi. Mi fanno sorridere quelli che dicono va cremato, vanno disperse le ceneri in mare, va imbalsamato, dice lei. È ridicolo, cioè per chiunque, anche per i peggiori criminali. O decidiamo che il corpo è, come è successo con Hitler volendo, no? Come è successo per alcuni gerarchi nazisti, sia in mano della, che ne so, dello Stato italiano, eccetera eccetera, oppure fanno quello che vogliono i suoi parenti, i suoi amici, eccetera eccetera. Vincenzo da Napoli. Pronto, buonasera, mi sentite? Sì, dica. Buonasera, sapere, ma quel signore di prima non apparteneva a Bresciani, quello che adesso è passato con Renzi? Sì, no. Ah no, va bene, volevo dire una cosa, signore Cruciani, potevano fare come Osama Bin Laden, lo buttavano. Perché ma quello lo hanno ammazzato, cosa vuol dire? No, che nel modo che non diventa un simbolo. Ma questo, vede, il problema principale è che questi che sono andati oggi a fare casino ad Albano rischiano di farlo diventare un simbolo più di quanto già non lo sia, questo è il punto, perché sono dei coglioni, ma sono dei coglioni, gente con i caschi che vanno lì, soprattutto gente che non ha un cazzo da fare, perché alle 4 di pomeriggio, alle 4 e mezza di pomeriggio andare ad Albano Laziale a fare casino, gente nulla facenti, disoccupati, gente che non fa un cazzo, gente che vuole solo menare le mani e basta. E che cos'è? Che è un bel ambiente. Ambiente di maiali. Ormai è tutto, tutto degradato, ormai. Francesco da Grosseto, buonasera. Buonasera, eccoci. Buonasera. Dica. Allora, in questa storia di Pripke veramente è una cosa che a me mi fa vomitare. Che cos'è perché, che le fa vomitare? Non ho capito. Abbiamo paura di un morto, di un fantasma, di che cosa? Ma infatti si sfogano gli istinti più bestiali in questo caso. No, lei mi spieghi una cosa. Come... Caro Parenzo, spiegami una cosa. Per quelli che sono andati, per questo, no, ma chi si indigna? Ma chi si indigna dei morti di Lampedusa? Ma io non mi indigno. Ma usi parole di scusa, indignatevi dei partigiani che non si fecero avanti. No, Francesco, Francesco, lasci perdere la storia, non ce ne frega niente della storia. No, ma stai tranquillo. Allora, il punto fondamentale è un altro. Perché questi signori che oggi sono andati lì a fare casino per la salma? Ma quale moto civile? Sono andati lì a fare casino davanti alla salma a prendere a calci a pugni, tentando di prendere a calci a pugni la salma. No, ma lascia perdere. No, ma non è... quello è morto. Perché? Hanno preso perché invece di andare a prendere a calcio un morto, non sono andati a picchiarlo e a prenderlo quando era vivo. Perché non sono andati? Hanno avuto 30 anni per pizzicarlo quando era fuori, solo che non gliene fregava niente e poi era vivo. Avevano paura magari di essere arrestati, no? Non si fa mai male. Invece male. Adesso hanno avuto coraggio di andare là a prendere a calcio a pugni un morto. No, nessuna violenza nei confronti delle persone, anche dei criminali, nessuna violenza. Ma che c'entra, dai, su. Mai nessuna violenza. Qui si tratta semplicemente di una manifestazione antifascista. Ma che vuol dire? Ma sei un poveraccio. Nel giorno in cui qualcuno che non appartiene alla Chiesa Cattolica, cioè questi preti lefreviani che non appartengono alla Chiesa Cattolica, hanno fatto il funerale a un criminale nazista, la rabbia della gente si è riversata sul carro funebre. Finita la cosa. Quel signore lì. Ma la rabbia della gente, la rabbia di quattro coglioni, dai, su. La rabbia di quattro coglioni. Purtroppo avrà sepoltura. 6 milioni di persone non l'hanno avuta. Ma questo non c'entra nulla, dico che tutti hanno diritto ad avere. Ma tu che cosa faresti con questa salma? No, dimmi cosa faresti con questa salma. No, ma io non voglio avere cosa nulla. Cosa faresti con questa? Ma che significa ma non te ne frega nulla? Per me può vagare per l'Europa, per il mondo intero, tu alla ricerca di qualcuno che la voglia. Qualcuno se la mette in un giardino, facciano quello che vogliono. Non mi interessa. Vabbè, fammi sentire Alessandro da Siena. Alessandro. Buonasera, Cruciani. Dica. Allora, a parte mi ha fregato l'intervento, perché io dicevo quello che ha detto lei un secondo fa, cioè? Ma questa persona usciva tutte le domeniche da casa, andava a messa, perché i romani non sono alzati di chiesa e sono usciti? Perché il prete ha detto la messa? E l'ha anche confessato in questi anni? Ma è una vergogna, abbiamo fatto una figura di merda nel mondo! Ma in che senso, scusi? Ma è clamoroso! Ma perché sì, perché siamo ancora una volta uno Stato che non è buono a prendere una decisione. Questo è morto. Chi è morto ha diritto a una sepoltura e a andare in chiesa se ci vuole andare. Quello doveva scontare, lo doveva scontare da vivo, quindi non sul suo divano di casa con le bibite, ma in una galera. Siccome l'abbiamo tenuto 10 anni sul divano di casa no, a mangiare maccheroni e tortelli... Noi non ci siamo accorti di niente. No, ma lei ha ragione su questo. Ma lei ha ragione su questo. Non si può tenere, come dire, agli arresti domiciliari un uomo per tanti anni e dopodiché si nega la sepoltura. Ci scagliamo. Ah, vergogna, dai. Ma non è una vergogna. A me non me ne frega niente di Pripke. Ma è proprio una contraddizione, la solita Italia. Parenzo, mi scusi, sì. Cruciani. Sì, sì. se mi lascia un secondo, io volevo lanciarle un altro argomento, secondo me, che voi generalmente non trattate questi argomenti qui, però secondo me è importante. La diseducazione sì. che sta dando chi? Balotelli alle generazioni italiane. Ma quando mai? Non... Ma non dica stupidaggini, Alessandro, non dica stupidaggini. Ma quale allora, diseducazione? Ascolti. Ma ha fatto benissimo persona... a rispondere in quel modo, ha fatto benissimo. Ma nessuno... Ma nessuno deve essere... Scusi, ma se quello non vuole essere un simbolo anticamorra, non gliene frega niente di quello che gli affibbiano gli altri. Non parlo di quello. Ma il resto io, non mi interessa, grazie. Paride da Varese. Perfetto. Paride. Pronto? Pronto? Dica, sì. Io ho telefonato invece per un altro argomento, perché a me di sto club che non è che me ne frega più di tanto. Io ho telefonato perché ho sentito prima che parlavano di Fazio e del suo emolumento di 5 milioni di euro. A me sembra invece, insomma, il solito modo per sviare sempre i discorsi e il solito modo per, diciamo, cacciare, diciamo, l'attenzione su cose che invece e distoglierla da altre, perché se Fazio, che viene pagato dalla Rai per fare un programma, logicamente dal punto di vista aziendale non si può dire che ci sia un altro Fazio e quindi dice io ne prendo un altro perché mi costa meno. E questo signore fa un programma che garantisce alla Rai alla Rai 3 in primissima serata, quindi insomma in una fascia in cui vabbè, insomma andiamo al succo, Paride, su qual è il punto? Insomma il 10-11% di share, quanto fa in media. Quindi se il costo è, come dire, è supportato dal fatto che però le pubblicità che grazie al suo programma entrano in Rai, cioè da un punto di vista aziendale sì, non fanno allora, che poi che sia un milione, che siano cinque, insomma. Se io la teoria di Brunetta è che lo stipendio comunque sia eccessivo per un ente pubblico, per la Rai che è pubblica, che non bisogna tanto guardare a queste cose qui, anche se fosse come racconta Fazio e gli amministratori della Rai, in ogni caso è uno stipendio eccessivo per essere uno stipendio pubblico. Questo è il punto fondamentale. Fulvio da Bergamo. Sì, buonasera. Sì. Io volevo intervenire a proposito di Priebke e di quanto mi è parso di capire che lei pensi su questo gentile signore, questo criminale. Sì. No, questo criminale lo può dire, anch'io penso che sia un criminale, intendiamoci. No, perfetto, però mi sembra esagerata la sua posizione nei confronti di quelli che, tra virgolette, i coglioni danno delle pedate a una bara. Ma sono gente sfaccendata che non ha niente da fare, è andata lì alle 5 di pomeriggio a dare calcio a una salma, sfaccendati totali, cioè gente che non ha nulla da fare dalla mattina alla sera e dunque ha il tempo per andare alle 5 di pomeriggio a dare calcio a una salma, attendere magari ore e ore per dare calcio a una salma. Gente che ha passione civile. Ma quale passione civile? Ma quando mai? Indipendentemente dalla passione civile c'è comunque un fatto che ci dovrebbe far riflettere, che probabilmente non è stato ben spiegato che cosa è successo e certe cose non sono ben radicate nella testa delle persone, perché probabilmente se così fosse non ci sarebbe nessuno che alle 5 del pomeriggio sfaccendato o no, ma no, va a dare calci. È tornato un po', è tornato per un attimo un po' di antifascismo militante residuale su Priebke, ma chi se ne frega, cioè sono... Ma chi se ne frega? Ma qual è il punto? In forma privata, dopo il rifiuto, secondo me, ipocrita dello Stato, della Chiesa, di seppellire, di... Poi adesso ma come fa lo Stato? Come avrebbe che lo Stato avrebbe dovuto fare? Ho capito, ma ragazzi, ma chi l'ha mantenuto fino adesso? Ci è costato pure un sacco di soldi. Chi l'ha mantenuto fino adesso? Spiegami. Parenzo, chi l'ha mantenuto fino adesso? Siccome questo è un paese civile... Appunto, chi l'ha mantenuto? Chi l'ha mantenuto fino adesso? Condannato. Ma l'avrà mantenuto la sua famigliaccia? Che no, so io. Ma chi l'ha mantenuto? La sicurezza, le cose, l'abbiamo mantenuto noi, Cioè, ma la sicurezza? Sì, vabbè, ma comunque... Siccome io sono contro la pena di morte, quello lì è rimasto lì, ha vissuto fin troppo, perché 100 anni, mamma mia, con tutti quelli che ha ucciso poteva... Vabbè, ma quella è la tua idea, prima. D'accordo. Ora ci ha lasciato, per fortuna, ma è sempre troppo tardi, e ha avuto quello che si merita. Vabbè, cioè, d'accordo. Quello che si merita. Arrivederci, signor Priebke, addio per sempre. Chissà che anche nell'alto dei cieli non ti facciano dormire sogni tranquilli. Oh, siamo qui con Maurizio Gasparri, PDL, Senato, buonasera. Buonasera, buonasera, mi sentite bene? Sì, benissimo, benissimo. Allora, senta, lei come definisce quelli che sono andati a prendere a calci e sputi la salma di Priebke? Ma guardi, era inevitabile che ci sarebbero state polemiche, lacerazioni. Forse sarebbe stato meglio, come si usa in alcuni casi dare notizia della morte ai seguiti avvenuti, succede tante volte, no? Quando si legge sui giornali qualche annuncio, forse andava gestita diversamente una situazione che comunque suscita polemiche, emozioni, contrapposizioni. No, però io, quindi, se io l'ho chiesto una cosa precisa, cioè quelli che sono andati lì a prendere calci, a prendere a calcio. Ma una salma non si prende a calci comunque, è chiaro che è chiaro che, però Pribe è un personaggio che ha creato tali odi e divisioni che anche dopo morto causa esplosioni di questa natura. Ma lei vorrebbe una sepoltura in Italia? Non ci, sarebbe scandaloso se il corpo fosse seppellito in Italia? Io credo che no, sia più giusto, insomma, che forse vada nel paese dove è nato, in tutto sommato. In Germania. Non credo che l'Italia debba farsi carico di questo onere, visto quello che è successo in Italia anche per sua colpa diretta. Parenzo, io non capisco. Il paese di nascita se ne facesse carico. Parenzo, sì, io mi dispiace essere d'accordo con Gasparri. Perché ti Parenzo dice che è dispiaciuto per di essere. Non vorrei ucciderlo definitivamente. Sono d'accordo con Gasparri stasera, devo dichiararlo apertamente. Diciamo. Vabbè, ma non è uno scandalo, eh. Cioè, perché lo mi dispiace per Gasparri, mi dispiace. No, perché? Perché mi dispiace per lui danneggiarlo, a dire sono d'accordo con lui. Ma no. Si potrebbe danneggiare, beh certo, il consenso di Parenzo può essere. Deleterio. È il contrario. No, però io dico una cosa, c'è un po' di ipocrisia in questa vicenda. Noi per anni abbiamo in sostanza anche mantenuto la sicurezza per Prib, che non è possibile che poi tutti adesso se ne lavino le mani. A partire dal vicariato di Roma, io capisco che è una cosa molto delicata, il vicariato di Roma. Ma io non so se c'ha dei familiari, non ho ben capito, non ho seguito. Sì, stanno in Argentina, sono degli amici qua. I familiari farsi carico di come gestire una situazione che certamente suscita queste polemiche, queste contrapposizioni, perché la tragedia di cui lui è stato protagonista, le pagine di orrore, non è che si cancella. Cioè, lei non frega niente della sorte del corpo di Pribica, mi sembra di capire. Cioè, non è particolare. Cioè, no, con tutti i guai che ci sono nel mondo, credo che capisco però tutte le proteste, le rabbie. Non vorrei che diventasse, certo, un luogo poi, no, di raduno, di simbolo. Cioè, lei dice un posto dove viene seppellito, dice lei. Ma d'altra parte è inevitabile. Potrebbe diventare un riferimento di persone che alimentano delle terre, sì, sentimenti nostalgici. Comunque credo che, insomma, il mondo abbia emergenze più grandi. Su questo, tutto ciò che di chiaro doveva essere detto sull'orrore causato da persone come Ripi, che è stato detto e resta imperituro nella memoria. No, ma questo collettiva. nessuno dice il contrario, è che in questa vicenda che è difficile da gestire, non c'è dubbio, però ci voleva anche un po' più di senso della realtà. Cioè, se per anni questo qua è stato mantenuto per quello che riguarda la sicurezza, ha potuto, diciamo, anche avere delle ore di libertà fuori, cioè, a un certo punto muore e non è che sì, la salma. Però vede, se lei vede oggi, ieri sui giornali, anche esponenti del mondo della Chiesa sono pronunciati diversamente, c'era chi diceva comunque sì, come no, un funerale va celebrato. Il nuovo ordinario militare, che io conosco bene, il vescovo Marciano, ha detto che invece ci sono, per i casi come questo di rivendicazione ostentata di orrori senza alcun pentimento, c'è la possibilità che la Chiesa non celebri funerali. Quindi, come vede, insomma, la questione fa emergere opinioni diverse perfino nelle alte gerarchie della Chiesa. Comunque io resto della mia idea, caro Parenzo, quelli che sono andati lì a prendere a calci e sputi sta salma, sta bar, sono degli sfaccendati fancazzisti che vanno lì alle 5 di pomeriggio. Un sentimento legittimo di rabbia. Di ma quale sentimento legittimo? Sono quattro sfaccendati, su, diciamo la verità. Gasparri non lo può dire perché non è conveniente dirlo. Dico che chi ha questi sentimenti dovrebbe organizzare un'iniziativa pubblica per ricordare le responsabilità e gli errori di cui Pribe, che è stato uno degli artefici, sarebbe un modo più utile, servirebbe a far conoscere, ricordare chi casomai ricordare. Cioè, vuol dire utilizzare questa carica in termini di comunicazione, di conoscenza di appunto errore. C'è chi è andato lì a cercare di menare le mani come al solito, di essere così, secondo me vabbè, lasciamo perdere. Senta, ma chi ha ragione? Innanzitutto si è formata una nuova coppia, caro Gasparri, che è la coppia Brunetta-Grillo. Brunetta-Grillo uniti nella lotta contro Fazio, contro Crozza, contro i conduttori che prendono un sacco di soldi. Vabbè, così Brunetta ha addirittura mandato una specie di tweet, se non sbaglio, a Grillo, diciamo benvenuto nel club. Ma pure Grillo, uno che ha guadagnato tanti soldi. Sì, vabbè, però tanti soldi non perché adesso ha smesso, perché è un po' fuori moda come comico, si è riciclato in un altro settore con qualche successo, per cui oggettivamente è una battaglia. Però credo che anche uno che faceva anni fa degli spettacoli che erano già più o meno semipolitici, in cui si pagava però il biglietto, Quindi, cioè, dice che è ipocrita la posizione di Grillo, anche lui guadagna. Dico che anche lui ha fatto parte di una artista, non mi ricordo, non lo so quanto fosse pagato all'epoca delle sue performance prima di essere allontanato dalla Rai. Che in termini di aggiornamento di prezzi siamo su quei livelli, però sinceramente non lo so, però sarebbe interessante. Cioè, la battaglia, sì, questo è interessante. La battaglia di Grillo, secondo lei, dunque, è un po'. No, va bene, insomma, però Grillo ha fatto parte di quello star system. Ne avrà tratto aggiornamento, ripeto, sarebbe interessante vedere quanto guadagnava lui all'epoca, sì, rapportato ai giorni nostri. Non credo che si sia andato gratis a fare, no, no, a fare. Per cui non ha diritto di protestare contro lo, no, stipendio, no, di Fazio. No, no, tutti hanno diritto di fare quello che vogliono, ma io non sono un fan di Grillo, naturalmente. Quindi, anche se dovesse sostenere una cosa giusta, non ho nessun consenso verso di lui. Non ce la fa lo stesso, giorno, non ce la fa a dire, ha ragione lui. Guarda, quando Casaleggio ha dato il contorno ai suoi, ancora una volta, aspetta un attimo, clandestina, non è che la cosa mi convince, è un atteggiamento strumentale. Io sono per il reato di immigrazione clandestina ieri, oggi e domani. Invece, no? loro hanno cambiato idea. Cavalca una roba, se pensa che gli è utile, è pronto a sostenere qualsiasi tesi, quindi non mi commuove, insomma. Anche se dovessi trovarmi a sostenere tesi analoghe, non mi sentirò mai vicino. Però lo stipendio di Fazio, secondo lei, 5 milioni, lo stipendio una vergogna. Cioè, perché una vergogna? È una vergogna perché è eccessivo, perché rispetta anche. Ma guardi, poi la vergogna è quello che ha fatto l'altra sera Fazio. Perché? Nel momento in cui si pone il problema, Fazio in modo veramente inguardabile, e col supporto di un pubblico, lui dice che non lo scelgono apposta, c'era un pubblico che applaudiva, uno che diceva: non vi posso dire lo stipendio perché il mio contratto lo impedisce. Ma stai, sulla applaudivano un'altra cosa, applaudivano quando lui ha detto: io non ho mai avuto una condanna per frode fiscale. Ma applaudito in modo ambiguo anche su altri passaggi, quindi secondo me era un pubblico combinato, sì, di plauditori, come fanno molte trasmissioni, sì, della Rai, sì, come fanno molte trasmissioni della Rai, che applaudiva un atteggiamento inaccettabile, perché lui non può dire le fesserie che ha detto, di cui si deve vergognare e stravergognare. Quindi dice: io quasi c'ho un obbligo contrattuale che non lo posso dire. Ma come? Dice: ma parli tu. Noi dobbiamo, come personaggi pubblici, come parlamentari eletti, depositare i redditi di tutto lo stato patrimoniale. Voi però per anni quando avete amministrato la Rai, non è che avete reso pubblici questi stipendi. Che ci vuole? I contratti sono sotto gli occhi di tutti, dei dirigenti. Nella scorsa legislatura il senatore Butti propose, la cosa fu approvata, che addirittura nei titoli di coda dei programmi fossero pubblicati, fossero trasmessi i trattamenti economici principali. Io credo che sia una misura di trasparenza. Poi in quest'epoca di trasparenza lei li metterebbe veramente in televisione Fazio è inaccettabile. Quello che ha fatto l'altra sera è una schifezza clamorosa, che andrebbe cacciato solo per questo, secondo lei? Ma si dovrebbe fare schifo da solo guardandosi allo specchio, addirittura. Sì, secondo me il modo in cui si è comportato è talmente ignobile che già quello lo condanna, non c'è bisogno di sanzione. Però scusi, lo stipendio è giusto. Quella persona in quel momento, in quel modo, è una roba che lo condanna a vita, perché proprio è una sanzione già di per sé. Addirittura, adesso, ma esistono ste clausole di non rendere pubblici? Non lo so. Io ho chiesto la riunione immediata della Commissione parlamentare di vigilanza, sì, per parlare di questa cosa. Voglio capire se esistono queste cose. Se la Rai di che cosa si lamenta? Giorni fa, ad esempio, il direttore generale della Rai ha dovuto portare il piano industriale in Commissione di vigilanza e giustamente ha detto: io me lo porto, però poi rispetto alla concorrenza c'è uno svantaggio. Io vi devo rivelare dei dati, delle situazioni aziendali. Gli altri non sono tenuti a questo. Questo è un argomento che può avere anche una sua fondatezza, cioè si crea una. Beh, allora è fondato o non è fondato? È fondato o non è fondato? Cioè, deve dirlo quanto guadagno o no, secondo lei? Arriviamo al punto. Fazio. Sì, certamente che deve dire. Ah, ecco. Non c'è dubbio. Ma lo stipendio giusto, secondo lei, qual è per Fazio? Ma guardi, questo discorso che poi uno porta la pubblicità è tutto relativo. Perché la pubblicità ha anche degli andamenti che sì, sono legati al programma, al conduttore, ma sono legati anche a tanti altri fattori stagionali, fasce orarie. Cioè, non è un uomo dalla gallina d'oro. Non è l'andamento di rete. Secondo me 5 milioni sono troppi, indubbiamente. Quindi in un'epoca di spending review in cui tutto deve essere ridotto, credo che... Cioè la metà, che ne so, la metà. Sì, sì, ma ciò sarebbe anche troppo per Fazio, anche troppo la metà, anche meno. Però le voglio dire, io non è che faccio il moralista a livello assoluto. È evidente che se Ballotelli è un giocatore di successo e fa i gol nella nazionale, nella squadra, è ovvio che deve essere pagato. Poi quando vedo che il Real Madrid compra un calciatore a 107 milioni di euro, dico: porca miseria, mettiamoci. Ce lo dice, pagato come Bale, secondo lei? Lo stesso. dirlo, no, non è pagato come facevo. No, vabbè, per dire, lo, come... lo Star Size, lo Star System comporta dei compensi, non bisogna essere ipocriti. Appunto. Se l'artista, il calciatore, il conduttore televisivo ha un successo, ci deve essere un rapporto. Poi c'è un limite anche qui, se mi consente, no? A volte il limite si sfora. Il prezzo per cui il Real Madrid ha pagato quel calciatore è troppo anche rispetto a questi sistema. Da questo punto di vista, il come Bale, il prezzo è eccessivo. Ma la vergogna è che lui doveva dire: guadagno quanti sono? 4-5 milioni, no? Li valgo per questa ragione. Il fatto che lui non lo abbia voluto ammettere dimostra che si vergogna. Cioè si vergogna dei soldi che guadagna. Con una adeguata dignità lo dice. Secondo Grillo è lo stuoino del PD meno L, cioè del PD. Io anche dico un'altra cosa. Grillo usa il suo linguaggio. Io dico che Fazio e l'Annunziata sono stati condannati dall'autorità delle comunicazioni. Vabbè, quello da... che ha sancito la loro faziosità, lo squilibrio, il loro asservimento ad alcune parti a cui mettono a disposizione uno spazio preponderante. Quindi non c'è bisogno di mettere gli insulti di Grillo. Lui è stato bocciato, condannato, e la Rai lo doveva rimuovere, secondo me, o va rimosso. Avere garanzie dopo questa bocciatura dell'autorità delle comunicazioni, perché lì non è la andava di rimosso. Gasparri. Il parere di Gasparri non conta niente, il parere di Cruciani forse conta già un po' di più, ma in questi giorni anche lei, insomma, come non dire, me la passo deve bene. Consolidarsi, deve consolidarsi. Dopodiché, a un certo punto, insomma, però andava rimosso, è uno che porta, però ho capito, è una delle trasmissioni che va meglio, uno lei dice andava rimosso dopo la sanzione dell'autorità, adesso questo. Rimosso o deve dare garanzie di quelle. Ma infatti ha invitato Brunetta per rimediare. Ha invitato Brunetta, ha fatto vedere, poi bisogna ragionare. Ma lei non ci andrebbe, mai da Fazio? Io ci sono stato una volta da Fazio, ero dappertutto a parlare e dire le mie idee, dove mi invitano io vado e dico le mie idee. Dunque ci andrebbe, del Partito Democratico. Per cui ci andrebbe, se la invitasse ci andrebbe. Ci andrebbe se la invitasse. Che cazzo di conduttore sei? Sei una zanzara. È la zanzara capricciosa, la zanzara veleno. Scusami, è paraculo. Allora siamo qui 800 24 00 24. Parenzo, io continuo a pensare, nonostante dire una cosina, no, adesso ti faccio dire qualcosa a Gasparri, però no, a cui voglio bene peraltro da tanti anni. Penso vuole bene, grazie. La pensiamo in modo radicalmente opposto, e questo per fortuna per lui, ma ciò non toglie la stima e il rispetto. Vabbè, sei diventato particolarmente moderato, come mai Parenzo? Sei diventato... che dico? Dopo no, bisogna continuare a essere aggressivi. Allora, il punto fondamentale è questo. Aspetta, io voglio tornare un attimo, non con Gasparri. No, un attimo, mi fai dire una cosa, perché mi stanno insultando da 10 minuti, da un quarto d'ora, perché ho detto, io posso permetterlo, me lo posso permettere da un certo punto di vista, Gasparri un po' meno, di dire che questi qua che sono andati a prendere a calci, a pugni, la bara di Pripp, che sono dei coglioni sfaccendati, io lo posso dire tranquillamente senza essere tacciato di essere un fascista, nazista, eccetera, sono quattro coglioni, perché se stavano a casa facevano davano, come dire, anche più nobiltà alle loro idee, non so come dirti. Tu puoi essere tranquillamente antifascista, antipribe, cioè stare a casa e permettere a un signore, alla salma, di essere celebrata in un posto privato, nascosto in una specie di convento dei Febriani ad Albano per 10 minuti circa, nessuno se ne accorgeva. Questo è il punto. Invece questi qua, che sono degli sfaccendati, gente che vuole menare le mani, sono andati lì a fare casino, per questo vengo a dire. Si vuole fare martirizzare con queste. Ma no, non è che mi voglio fare martirizzare, è che la realtà è questa, è che questi qua che sono andati a fare casino sono dei coglioni, ma punto, cioè, non è un problema. Ho detto che farebbero meglio a fare un convegno in cui spiegassero i crimini di Pribbia. Parenzo, che vuoi dire? Ma insomma, no, ma non c'è nessun convegno da fare, c'è una rabbia popolare che si è manifestata contro uno. Vabbè, questo l'abbiamo detto, poi evviva, è quello che si merita, quello ha seminato quello e si merita quell'odio lì. Quello che invece voglio dire alla mia, poi tra l'altro leggo che i funerali di Pripp, che sono stati sospesi per decisione del prefetto di Roma, perché un gruppo di estremisti di destra, altrettanto coglioni dico io, voleva entrare nella cappella. Vabbè, comunque, dimmi Parenzo, che vuoi dire? Comunque niente, altra cosa è invece la questione gravissima detta da Gasparri, cioè, lo dico cosa con, detto? Con il bene che gli voglio e l'amicizia che ci lega da 20 anni. Ma quale amicizia? Ha detto una cosa di una gravità inaudita, cioè cosa? Definire lui i compensi di Fazio, ma di cosa parliamo? Ma quella è un'azienda che comunque è sul mercato nonostante sia pubblica, e quindi deciderà l'azienda in autonomia. Perché non ne parla? Perché non possiamo fare una discussione pubblica? Perché lui ha un contratto con l'azienda. Che fanno, perché lui ha un contratto. Sinistra, attaccano tutti, e allora facessero un po' un discorso di trasparenza. Ma perché? Cioè, sulla politica giustamente se ne dicono di tutti i colori, ed è giusto, ma ci vogliono interi banchi ricchi e settori del Parlamento per fare lo stipendio di un Fazio o di un Crozza. Vabbè, quello è a tempo però, eh. Vogliono partiti interi. Quello è a tempo però, Gasparri, cioè quello, no, quello di la politica è a tempo, si figura di questi tempi. Beh, ho capito, cosa però c'è di più al tempo della politica? Se lei dice costa molto di più Fazio che di un partito intero. Di un partito intero. Un partito con uno come Fazio. Lei dice, eh? Sì, sì, sicuramente. Beh, no, i debiti del PDL, da quanto si sa, sono molto più. Io parlo dei singoli parlamentari. Per fare guadagno di Fazio devi mettere un gruppo parlamentare di, che ne so, 40 persone. Scusi un attimo, ma a proposito, ma Crozza, lei è contento che sia saltato questo accordo? Sembra, questo no, accordo. Io sono, ma il suo discorso, Crozza è anche simpatico e divertente a volte. Io sono stato anche allo scherzo, mi ha invitato. Abbiamo fatto le gag, le battute con lui, finto Marzullo. C'è un limite a tutto. Mi pare che questo costo di 500.000 euro a puntate moltiplicato per non so quante puntate, che portava a una cifra non di guadagno di Crozza, sì, ma di spesa della Rai in alcuni anni di 25 milioni di euro, 50 miliardi di vecchie lire, come direbbe Bonolis, di vecchio conio, mi pare una cifretta, come dire, esagerata. Lo so che non è una puntata, però ma chi lo decide? Come chi lo fu esagerata quella di Benigni? Benigni che ha fatto alla Rai? Ha detto: io vi faccio il programma sulla Costituzione, che è un successo, è stato visto da molti. Poi vi deve beccare tutte le serate sui canti di Dante. Padre Dante è caro a tutti quanti noi. Ho capito, ma allora senza Dante. Dopodiché quei programmi, lei lo sa, hanno fatto un ascolto, non lo so. Vabbè, quello però non è prevedibile, insomma, no? Oh, porca miseria, non è prevedibile. Allora devi anche restituire un po' di soldi, perché hanno fatto un ascolto del 2%. Cioè dovrebbe restituire i soldi Benigni, secondo e lei? E poi l'hanno dovuto addirittura sospendere, che non è stato un grande omaggio a Dante, e alla fine il complesso dei guadagni era, quant'era? 6 milioni, quant'era? Cioè dovrebbe restituire un po' di soldi? Avrei vinto pure l'Oscar, ma fai il moralista dalla sera alla mattina, rompi le scatole a tutti, fai il critico, eccetera, e poi lo fai con le tasche piene. Allora vai in giro, come la banda Bassotti, c'erano il numero del Bassotto l'uno l'altro, dovrebbero mettersi il guadagno complessivo anno, i nostri sono noti, pubblicati, strapubblicati, Crozza e Fazio, vadano in televisione con un cartello, no? Invece che il numero come la banda Bassotti, no, 5 milioni l'anno, 5 lire alla settimana, la scrivono la cifra, così uno li guarda e lo sa, e vive un po' di meno. Però devo dire la verità, che i parlamentari del PDL sono anche quelli più restii a pubblicare la loro situazione patrimoniale sul sito della Camera e del Senato, come mai? I dati vengono depositati. Ho capito, ma pure voi non è che siete sono così. Sono depositati, i giornali li pubblicano, poi uno sul sito può pubblicarli o meno, ma sono depositati per legge, sono consultabili da parte dei cittadini. E che ne pensa di quelli del suo partito che non danno l'obolo al partito, che sono parecchi? Non male, perché è un dovere versare una quota, è giusto farlo per sostenere le politiche del partito. Comunque lei, se Crozza non viene alla Rai, è contento? Ma tanto c'è, scusi, sta a Ballarò. Lì fa la sua satira solo verso alcuni, non verso altri. Il giorno in cui sarà un po' più equanime sarà meglio. A volte prende in giro quelli di sinistra, ma una volta su 50. Quindi vabbè, Crozza, ho capito, ma perché quanto guadagna Crozza per Ballarò? Io non lo so. Ma che ne so, lei lo vorrebbe sapere? Lei lo vorrebbe sapere? 25 milioni di euro, sono tanterelli, insomma. Vabbè, ho capito, quello però, scusi Gaspari, in questa cosa qui o lei dice questi sono degli incapaci, i dirigenti della Rai, a fare contratti di questo tipo, oppure no, decideranno. Ci vuole un tetto. Cioè la ma come un tetto? Guardi, ma allora il direttore generale può dire assoldo Cruciani perché è unico, è irraggiungibile. Non accadrà. Lo pago 100 milioni di euro perché ma più o meno è così, più o meno è così. Lo deve dire, ma più o meno dire è così, Gaspari, voglia più o meno è così, loro assoldano Crozza. Fazio si è vergognato di dire il suo stipendio, i suoi guadagni e ha detto che lui dice che c'è una clausola e non lo può dire. Vergogna di Fazio. Tra vergogna. Però non lo vuole dire perché evidentemente c'è una clausola. Perché si vergogna. Perché deve essere il campione della sinistra, poi invita solo gli autori che gli piacciono a lui. Bocciato e condannato dall'autorità della comunicazione. Ma è un marchettaro secondo lei? È un marchettaro? È un marchettaro secondo lei? Beh, invita solo quelli che sono crediti a lui per fare la promozione dei libri. Quindi c'è una selezione. Poi guardi, non è che lo dico io. L'autorità delle comunicazioni. Sì, vabbè, una volta è successo, su, adesso rispetto. Ho capito, ma un sacco di gente è faziosa la Rai, dai, su, Maurizio. E lui ha avuto l'editto. Gli altri quando avranno l'editto ce l'hanno avuto lui e la Lucia Annunziata, che quando gli ricordano le consulenze che ha fatto a molte grandi aziende, si arrabbia, si offende. urla, che c'è di male se hai fatto la consulente per la allora, Telecom, ragione, per ragione altre Gaspar, società, guarda, guadagnando molti soldi, se li valevi dillo, sai perché si vergogna? Perché si vergogna? Gli eroi della sinistra, pauperista, combattente, e lì poi stona un posto fatto. Del di essere di fare il consulente, ma allora fa... Asilo, no? Che ti, avrà cioè, fatto un convegno, ha fatto un convegno per un'azienda, non mi ricordo, era una moderazione, una roba professionale, una roba professionale, non è che c'aveva uno stipendio fisso. Parenzo, che c'è? No, due cose. Uno, Gasparri ignora, occupandosi di televisione da anni, ma ignora che Fazio, che è un dipendente dell'azienda pubblica, ha firmato un contratto con quell'azienda in cui quell'azienda gli chiede quell'azienda di non rivelare, i compensi, primo, e questo Gasparri lo ignora, invitando Fazio a commettere un reato rispetto alla sua azienda. Questo ma è lui dice primo. Che è sbagliato che ci sia questa roba qua, se c'è. Allora cambiamo. Ma che no, allora... la RAI è un'associazione segreta? No, lo dica la RAI, la RAI deve cambiare regolamento. Ma Fazio ha rispettato il contratto che ha firmato, primo. O dice quanto guadagna. Oh, Tertium non datur. O appartiene alla P2 o dice quanto guadagna. O va in televisione col cappuccio della P2 e dice sono di un'associazione segreta, non vi posso rivelare. Ma è un dipendente di un'azienda. Ma lo dice e fa un dibattito pubblico sui guadagni. Ma questa è spiegazione a delinquere. Dibattito pubblico sui compensi, perché una logica di mercato la capiamo tutti. Vabbè, dibattito pubblico sui compensi. Ma è spiegazione a delinquere questa di Gasparri. Gasparri fa istigazione a delinquere. Perché istigazione? In questo... Perché? Istigazione a delinquere perché Fazio non può rivelare, perché ha firmato un contratto con l'azienda, è un dipendente, non può. Ha ma lui dice che è sbagliata rispetto... questa clausola, evidentemente. Va bene, questo non mi allora ma lo dica l'azienda, questo non mi interessa. La seconda cosa è che allora se Fazio e altri devono andare in TV come la banda Bassotti, iniziasse anche Gasparri ad andare in TV come la banda Bassotti, perché? Dicendo tutti i soldi che ha incassato col finanziamento pubblico. È uguale io quello del mio trattamento. Economico che è noto, è depositato, è pubblico, esce sui giornali, i nostri trattamenti economici sono stati illustrati per lungo e per largo, come è giusto che sia, e dopodiché si assente pubblico, riguarda i partiti, eppure quei dati sono noti, al punto che lo stiamo abolendo, lo stiamo tagliando, abbiamo ridotto del 50%, adesso lo azzereremo. Ma anche lei in TV con un cappello. Lei ha ragione, ma sono dati pubblici. Questo è il punto, dice Gasparri, quelli sono dati pubblici e quelli no. Fazio. Però Fazio dice che c'è una clausola, se la prenda con la RAI, non con Fazio, si è messo sta clausola. Questo è il punto. Vabbè, senatore Gasparri, grazie, buona serata. Grazie a voi. La zanzara che punge nel vivo. Scusate se vi ho disturbati. Come vampiro. Mario da Verona, buonasera Mario. Buonasera. Dica. Luciani. Sì, vada. Parenzo, sì. Bravi, attenti, allora il signor Frisie lì, chi è? Sì. Non si poteva suicidarlo 30 anni fa. Che vuol dire? Cioè, mettere, avvelenarlo, fare cosa? Non so, si evitava tutto questo casino, no? Non lo so, tutti se ne fottevano, questo è il punto. Comunque io volevo dire anch'io che si poteva imbalsamarlo e portarlo per esempio a Dachau, no? Vabbè Mario, lei sta scherzando ovviamente. Vabbè, su. Imbalsamare chi lo porta? Chi è che decide se deve essere imbalsamato o no? Prendiamo. Comunque adesso lo stanno cremando, no? E le ceneri? Ma chi l'ha detto che lo stanno cremando? Lo dice lei che lo stanno cremando? Come no? Non volevo cremarlo. Ma quando mai? Assolutamente. Vabbè, Franco da Pistoia, su, Franco, abbiamo risvegliato i demoni. Abbiamo risvegliato i demoni, Franco, certo, dica. Sì, buonasera. Dica. Io quello che volevo dire non è intermedio, cioè non sulla persona di Fridri, in quanto è non è anche da prendere in considerazione ciò che ha fatto, cioè le si è macchiato di crimini, che se ci fosse stato l'ergastolo preso magari qualche decennio prima, scusi, l'ergastolo, la pena di morte, non l'ergastolo, forse sarebbe stato da fucilare. Vabbè, in Italia non c'era la pena di morte, su. Lo so, ho detto se ci fosse, infatti. Quello che però io volevo dire, siccome ha richiesto un rito cattolico, quello che volevo capire è perché la Chiesa ha messo Friedrich al pari di Welby. Cioè, io fossi nei familiari di Welby, vorrei sapere qual è criterio. Beh, diciamo che i due piani sono diversi, è la teoria del professor Di Freddi, tra l'altro, questa qua, ma i piani sono molto diversi, cioè funerali negati, sì, a Priebke e funerali negati a Welby, ma insomma, non mi sembra che sia per gli stessi motivi. Comunque è vero che sono stati negati funerali a uno, all'uno e all'altro. E l'uno e all'altro, infatti io volevo infatti capire per quale motivo c'è una preselezione terrena a quello che sarà un giudizio poi divino. Vabbè, ma non è questo il punto, le due cose sono, le due cose sono completamente diverse, dai, su. Giuseppe dalla provincia di Milano, Giuseppe dalla provincia di Milano. Sì, pronto? Sì, dica. Buonasera, Cruciani, vada. Volevo fare una lamentela prima di tutto, perché stasera basta, cioè io ho messo la radio per farmi due risate, Priebke, poi Gasparri a due palle. Ho capito. E ci poi, faccia ridere lei allora, adesso fra poco. Sì, infatti io volevo chiedere una cosa, allora, per mantenere l'argomento semiserio, insomma la trasmissione semiseria, volevo chiedere una cosa a Parenzo, volevo sapere quante volte lui tromba al giorno. Beh, cioè, questo è interessante domanda. Però, questo è interessante. La mia domanda, ma c'è una teoria dietro? C'è una teoria, qual è la teoria? Scusi. La teoria è che lui, io ho visto, insomma, non si incazza mai, no? Tutti gli dicono nano, inutile, di tutto. Gli beh, dicono, adesso non è che tutti lui ride sempre, insomma, se la ride sempre. Quindi ho detto, sicuramente sarà qualcosa dietro. Poi ho saputo, da fonti certissime, che lui è rimasto, la moglie è rimasta incinta, ha fatto il figlio adesso. Ma non è che fonti sia certissime, l'abbiamo detto noi qua, ma qual è il punto? Ma la fonte certissima mi ha detto che la moglie, primo caso al mondo, che era già incinta ancora prima di fare il figlio, è già di nuovo questa incinta. Carina. Questa è una battuta, devo dire, questo per guardi, ha fatto bene a telefonare, sì, perché avendo lei pensato questa battuta da un anno, sì, da un anno, ha fatto bene a chiamare. Poi, no, ho visto poi, ha confermato anche Radio Belva, ho visto la trasmissione. Questa è una anche lì tutte offese di tutto e lui se la ride sempre. Invece lei ha presente, secondo me, che nelle sitcom americane mettono le risate finte sotto, presente, no? Sì. Quello ma, non è, ma io volevo sapere veramente. Ma che? Voglio essere lapidario, lei è una persona simpatica ma è uno scacciafighe. Quando c'è della figa in trasmissione faccia parlare Cruciani, per favore. Se no attaccano, non rispondono più. Pronto? Don Petrucci? Sì? Sì, buonasera, sono Giuseppe Cruciani, Radio 24, la disturbo? Pronto? Sì, mi sente? Sono Cruciani, Radio 24. Pronto, non la sento bene. Mi sente pronto adesso? Mi sente? Sì. Don Pierpaolo, sono Cruciani, Radio 24, mi scusi se la disturbo. Sì. Senta, lei è uno di quelli che sta in questo, è vicino alla salma di Priebke? Noi siamo qui al priorato di Albano, sì. Sì, al priorato di Albano. Qual è la situazione adesso? Ce la può descrivere? Perché sono stati interrotti i funerali? Ma io, diciamo che, ecco, c'è l'avvocato del che ha fatto una dichiarazione ai media, penso, un comunicato stampa, quindi... No, no, ecco, ma volevo chiedere a lei, che è il superiore delle Febriani della Fraternità Sacerdotale del San Pio X, no? Ma guardi, noi abbiamo fatto un comunicato stampa, anche noi. No, ma lo so benissimo, solo noi siamo la radio... Sul nostro sito. No, ma lo so, siccome... Il nostro scopo era soltanto dare una sepoltura a un cristiano, che magari tutti gli ore che aveva potuto fare nella sua vita, però è morto riconciliato con Dio, quindi non capiamo tutta questa manifestazione politica, ideologica. Ma le esequie sono state interrotte adesso perché ci sono queste notizie qua in questo momento, oppure le avete terminate? Ma appunto io lascio qui la parola all'avvocato. No, che no, me lo dica. No, d'accordo, a parte l'avvocato Giacchino. Non voglio ingerire perché siccome è lui che gestisce queste cose, sì, ecco, quindi penso che abbia fatto un comunicato stampa, da quello che so. No, ecco, lo so, quindi... però volevo sapere dalla sua voce, che siccome siamo a casa vostra praticamente, no? Queste cose si svolgono a casa vostra, non è casa dell'avvocato Giacchini. Cioè, volevo capire se le esequie sono terminate oppure sono ancora in corso. Appunto, questo è quello che ha comunicato l'avvocato in questo momento. Senta, le posso chiedere una cosa a Don Petrucci, scusa, velocemente, sì, poi la lascio. Lei considera Priebke un criminale? Ma io ripeto, qualunque cosa una persona abbia potuto fare nella vita, no? Lui è stato condannato, ha pagato anche nei confronti della giustizia, è stato, sì, è stato condannato, era agli arresti domiciliari, però la misericordia di Dio perdona se uno chiede, se uno è pentito delle proprie colpe. Beh, lui non si è pentito però, eh? Ma sì, a quel che mi risulta lui si è avvicinato, ha ricevuto il battesimo, si è avvicinato alla confessione, riceveva, sì, la confessione e la comunione. Quindi... Però non mi sembra pentito. Ma io, a me risulta di sì, io conoscevo, perfettamente, altrimenti non avrei fatto il funerale. Lui, però scusi, ha letto il testamento che ha lasciato presso l'avvocato, anche video che verrà diffuso forse nei prossimi giorni, in cui nega l'esistenza delle camere a gas e dice di non essersi mai pentito? Non so se lei ha letto questa cosa o ne ha sentito parlare, perché di questo si tratta, Don Petrucci. Sì, io sto parlando, lei mi parlava di crimini, lui è stato accusato per un fatto ben preciso, no? Sì, ma lui è un criminale, lei lo definisce un criminale oppure no? Pensa che sia innocente? Ma io penso che la giustizia lo ha già condannato. Sì, quindi... dunque è un criminale, lei lo considera un criminale? Ma io le dico questo, guardi, in quanto sacerdote io considero, sì, una persona viene da me, si confessa, ha fatto un crimine, ha fatto, sì, un peccato, se è pentito, veramente pentito, ma gli do la soluzione. Se muore pentito con la Chiesa, sì, ha diritto al funerale religioso. Scusi, ma lui è stato pentito? Questo odio mi sembra veramente assurdo verso una persona che ha 100 anni, sì, che appunto che ha avuto modo di pentirsi dei peccati che ha potuto commettere durante la sua vita. Ecco. Sì. Scusi, un suo sacerdote. Pronto? Scusi, Don Petrucci? Un suo sacerdote però aveva detto che è peggio che quando Luxuria sì, ha preso la comunione. Riproviamo a chiamarlo, perché Don Pierpaolo Petrucci forse non si rende conto che Pribke in realtà non si è pentito, o forse lo sa e non ce lo vuole dire. Cioè, no, che dici, Parenzo? Ma anche io avevo avuto un po' di cose da chiedere a questo signor prete. Un attimo, adesso lo richiamiamo. Pronto? Don Pierpaolo? Pronto? Sì, Don Pierpaolo, pronto, mi sente? Pronto? Don Pierpaolo, pronto, mi sente? Pronto? Sì, Don Pierpaolo Petrucci? Vabbè, fanno apposta, dai, su. Alessandro da Cuneo. Buonasera. Sì, abbassi la radio. Sì, l'ho abbassata. Grazie. Ascolti un po' una cosa, ma col menagramo di Parenzo, ancora di fianco a lei? Sì. Sì, è qui, perché è qui. Sì, perché ci eravamo sentiti nell'immediata vigilia del compleanno del capitano. Qual è il capitano? Qual è il capitano? Il capitano dell'SS Erich Priebke. Ma perché lo chiama il capitano lei, Alessandro? Scusa. Perché è il suo gara di capitano. Ho capito, perché, ma il capitano di solito lo chiamano gli amici suoi, i fascisti, i nazisti, così lo chiamano, il capitano. Capitano, mio capitano. Personalmente non sono un suo amico, però gli sono vicino e esprimo le condoglianze alla famiglia. Ma perché uno è vicino? Io cosa le frulla in testa a lei per essere vicino ad Eric? Lei non è né un familiare, né un amico, né un parente stretto. Io posso capire gli amici, i parenti stretti e i familiari, è comprensibile, uno può essere vicino anche al peggiore criminale. Ma perché lei da Cuneo, Alessandro da Cuneo, mi dice io sono vicino al capitano? Ma io, è impazzito o no? Ma io glielo spiego benissimo. Come lo spieghi perché è vicino al capitano? Oggi sì? Ai funerali di Priebke, sì? Si è vista una parte d'Italia alla quale io sono fiero di non appartenere. Vabbè, ma quello è un altro discorso. Perché noi oggi abbiamo visto a che livello infimo, vile e basso è ridotto l'antifascismo italiano. Sì, siamo d'accordo, però il punto, io posso anche essere d'accordo. Io posso anche essere d'accordo che quattro ci sono stati. No, d'accordo non con quello che ha detto. No, ma scusi, Cruciani. Ma che c'entra col fatto che lei è vicino a Priebke? Al di là di quei quattro delinquenti, ma allora, questo povero cristiano che è morto, prima non gli volevate far fare la festa di compleanno, adesso che purtroppo è morto gli volete negare un funerale cristiano, gli volete negare un pezzo di terra benedetta dove riposare in santa pace. Ma voi siete migliori di lui? Ma vi credete veramente migliori di lui? Vendicativi che non siete altro. Parenzo, rispondi siete tu, migliori? Dai. No, dico, migliori di quella sottospecie umana lì, sicuro, ma su questo non c'è dubbio. Comunque Mentana ha appena detto alla 7 che è pronto il forno crematorio per lui, da quello che mi segnalano questo, che ha detto è pronto il forno cremato, perché sembra che sarà cremato, sembra, eccetera. Lui ci andrà da morto, mentre altri se ne sono andati da vivi, capito? La fortuna di Pirke è quella lì. È un'ironia macabra, dai. No, su. Non è ironia, non è, è la verità, la fortuna di quest'uomo è quello che ci va da morto. Altri ci andavano da vivi. Va bene, d'accordo, ma sono d'accordo con te, per carità, cioè non, il punto non è questo, lo sai benissimo qual è il punto, dai. Lui ci va da morto. Vabbè, allora Alessandro, perché lei lo chiama il capitano? Ma no, io voglio rispondere un attimo a Parenzo, visto che prima parlava di soldati che obbediscono agli ordini, che poteva rifiutarsi. Ma io voglio chiedere, ma il soldato americano, l'aviatore americano che ha sganciato la bomba atomica, guerra praticamente finita sul Giappone, 300.000 morti, dov'è? Qualcuno ha fatto tanta canea? Se facciamo la conta dei morti, Pritchett ne ha fatti 350, quell'altro ne ha fatti 300.000. Sì, però lei deve capire che a un certo punto, durante la Seconda Guerra Mondiale, senza dubbio c'erano i buoni e i cattivi, c'erano quelli che per fortuna hanno vinto e quelli che per fortuna hanno perso. Ha capito qual è il punto, Alessandro? Bel mondo viviamo, bellissimo mondo. Beh, ho capito, ma lei vive in questo mondo soprattutto perché qualcuno forse ha sganciato anche la bomba atomica, adesso al di là delle tutte le ideologie eccetera, perché hanno perso i nazisti e i giapponesi o quelli che erano, capito o no? Elvira, fatto giudicare a me, sarà meglio che... No, è meglio, le assicuro. Elvira da Roma. Come qua. Tutto quello che dovevo dire già è stato detto. Lei ha detto delle cose che io condivido pienamente, mentre prima non era così. Il fatto che questo doveva essere messo cremato da vivo, come ha fatto lui con gli altri. No, io non ho detto e questo. Non da morto. Non che l'abbia detto lei. Approvo che sia stato detto, semplicemente. Non devo scusi, aggiungere altro. Chi lo doveva cremare da vivo? Chi lo doveva cremare da vivo? Questo qua è stato a un certo punto catturato in Argentina, dove stava, preso e portato in Italia, prima assolto, poi condannato, eccetera, eccetera. Quello che ha fatto lui, una giustizia troppo giustizia. Vabbè, guardi, se gli israeliani avessero mandato un comando a ammazzarlo, nessuno avrebbe pianto. Io certamente non piangevo, capito? Non piangevo. Ho capito perfettamente, e questo è l'impianto. Ho capito, ma una volta che ce lo siamo sobbarcati, una volta che ce lo siamo sobbarcati per 30-40 anni, quello che è stato, 20. Non basta che i romani di cui non è che possiamo fare, vabbè, adesso via, adesso ce ne liberiamo così. No, una volta che ce lo siamo sobbarcati per 20 anni, allora questo fa il funerale dove gli pare a lui e decide la sepoltura più o meno dove gli pare a lui. Cucù, scusate se vi ho disturbati. Quando la zanzarina tormenta la mia noce, passa in blanco. Dai. Paolo Reggio Emilia, buonasera. Buonasera. Dica. Ma mi dispiace perché la serata è un tema abbastanza drammatico, però io volevo... No, ma lei alleggerisca. Prima mi ha chiamato un camionista, Filippo, dicendo basta con Pripp, che parliamo di froci in autostrada. Vabbè, un mito, una leggenda. Ma io, a me piacerebbe che se riuscisse a fare una trasmissione per capire un attimo questa differenza sostanziale, che credo che sia fondamentale in questo momento storico, capire la differenza tra Milfone e Cugarotte, e Cougar. Cioè, che vuol dire, scusi? Milf lo so che cos'è. Appunto, ci sono queste due categorie che sono mai diventate un sì, un ma caso, le Cugarotte, insomma, quali sarebbero, scusi? No, Cougar. Le Cougar. Cugarotte. Le Cougar sono una categoria femminile e le Milf anche, però in Italia Milfone e Cugarotte sono diventate ormai una roba. Ma che vuol dire, scusi? Sia più chiaro, le MILF lo so che cos'è, le Cugarotte che vuol dire? Sono probabilmente qualche anno più avanti e un pochino più come si dice? Vabbè, più a lei sfacciate, più sfacciate addirittura. Cioè, a lei sì, piace? A lei qual è la categoria che le piace di più? Ma le Cougar non sono male, sostanzialmente. Cioè le Cougar sono over che cosa, scusi? Sono over che? Secondo me sono over 50, secondo me. Over 50 addirittura. Però, tipo, una volta si chiamavano Panterone, adesso si chiamano Cugarotte, insomma. Ecco, invece Milf, secondo me, visto il pubblico che è femminile, che frequenta la sua trasmissione, sarebbe carino capire che cosa gli uomini preferiscono, insomma, ecco, perché lei ci vuole proporre, dopo aver parlato un'ora e mezza di Pripke, di Pripke soprattutto, e in parte la di Fazio, la farmi il fuori Cugarotta penso che sia fondamentale. Vabbè, ecco, Paolo, grazie, adesso vedremo. Sarà molto difficile perché qui bisognerebbe cambiare completamente tono, bisognerebbe cambiare completamente tracciato, cambiare completamente proprio. Io ogni tanto ho fatto un po' di zanzara 8 verso la fine della trasmissione, però insomma adesso non è il caso. Zanzara! Oh, invece io ancora sono fissato con sta storia di Miss Italia, caro Parenzo. Sono fissato perché alla fine torna Miss Italia sulla 7, ma ancora ho in testa un giorno solo, però ho ancora in testa le critiche che sono state fatte a Miss Italia da parte della Boldrini, le critiche da parte del presidente della Camera alle donne che vanno, si mettono nude in pubblicità e bisogna cambiare le cose, le donne che servono a tavola delle pubblicità e le donne che non devono troppo, no, non se si mettono nude nelle pubblicità chissà cosa succede, il ruolo viene sminuito. Beh, abbiamo con noi una che ha vinto Miss Italia, Martina Colombari, buonasera. Buonasera a tutti. Come sta? Come sta? Ma allora queste donne come devono essere? Non lo so. Perché io da donna a questo punto allora ho molti dubbi, perché forse ho sbagliato tutto nella mia vita, non lo so. Perché io da buona romagnola servo ogni tanto il tortellino in brodo a mio marito a tavola e vinco Miss Italia e ogni tanto faccio vedere qualche pezzettino di pelle, forse di troppo, però mi siedo serena davanti a mio marito e mio figlio con la coscienza a posto. Cioè sei una brava... Non mi sento... né scostumata, tantomeno una cattiva mamma o moglie. Ma qualche pubblicità mezza nuda l'hai fatta? Sì, non me lo ricordo. Qualche pubblicità in cui... ho fatto dei calendari di Panorama, ho fatto dei calendari per la Campari. Devo dire che se mi si giudica per i centimetri di pelle che ho fatto vedere, vuol dire che non ho capito nulla nella vita. Allora, per fortuna il mio pubblico mi ama non solamente per queste foto, ma forse ha capito che una donna non siamo più costretti, allora, tu dici, tu hai, per quanto si scopre, tu hai tutti i ruoli, cioè reciti tutte le parti in commedia, la mamma, la persona che serve a tavola, ma anche quella che fa la pubblicità. Bello. Un po' così no. Perché poi vado anche ad Haiti e faccio un po' anche il mio volontariato sociale, cioè, come ha fatto anche la Boldrini, cioè ci sono delle cose che ci accomunano e altre cose che proprio non c'entriamo nulla. Ma perché, quindi, secondo te si impiccia di queste cose la signora Boldrini? Ma è anche giusto, però mi piacerebbe allora che lei riuscisse a trovare anche una collocazione per queste donne, perché il 2% è veramente poco, ma noi vorremmo essere il 200% in televisione. Non è che non siamo capaci, forse mancano le idee, forse mancano i ruoli. Vabbè, quello è un altro discorso. Allora apriamo una parentesi che e poi le polemiche non portano a niente, portano ad altre polemiche, a me non piacciono. Ma perché per esempio ultimamente hai fatto quelle foto sul tuo profilo mostrando... Ma tu sai che quelle foto, innanzitutto io non sono sui social network, perché non sono né su Facebook né su Twitter, quindi tutto il circo l'hanno fatto gli altri, non l'ho fatto io. Però tu le hai messe, non so dove le hai messe, quelle foto sono circolate. Era una mostra sponsorizzata da RCS, fatta all'interno della rassegna fotografica allo Spazio Forma, Tempio della Fotografia di Milano, fatta 2 anni fa. Ah, erano foto di 2 anni fa? Questa è una cosa assurda, che comunque vengono ritirate fuori, ma senza essere collocate, dicendo che mi faccio dell'autoerotismo allo specchio. Sì. Peccato che ci fossero foto in questa mostra dove c'è anche mio figlio che mi pittura la faccia, cioè... bisogna anche vedere come poi vengono comunicate queste notizie. Dago Spia, mi ricordo, titolò: come si fa per non sparire dai giornali? Chiedete alla Colombari che non smette di fotografarsi nulla. Certo, ma peccato che l'hanno tirate fuori loro, perché era una cosa di 2 anni fa, capisci? Ma va bene così, va bene, non mute, non nude, cos'era la maglia di oggi di Miss Italia? Ma va bene tutto. Ah sì, né nude né mute, né nude né mute. Ma in realtà va bene anche nude. Cioè, a me non capisco se poi alla fine ci sono anche delle regole, no? Che stabiliscono quello che si può fare e quello che non si può fare. Se uno vuole proporre il no al nudo, facesse una regola, sarebbe una follia totale, cioè si lavorerebbe anche di meno. Ma sono sempre state la Lollobrigida, la Loren, e non erano... Ma la Boldrini sfigurerebbe senza qualche velo, senza qualche vestito, secondo te? La Boldrini sfilerebbe? No, sfigurerebbe secondo te? No, io trovo che sia una bellissima donna. No, ma infatti anche secondo me, magari la troveremo tra qualche... A me dà più fastidio allora un atteggiamento di Ballotelli, che ancora gli diamo la possibilità di giocare. Perché? Cioè, sono altre le cose che mi danno fastidio allora. Perché? Cioè, perché Ballotelli? Perché ce l'hai con Ballotelli? No, nel senso, con atteggiamenti sbagliati, cioè non credo che siano le donne di Miss Italia a dare un esempio. Però io difendo Balotelli, Martina, io difendo Balotelli a spada tratta. Io faccio un po' fatica, avendo un milanista in casa che dopo 25 anni non si era mai permesso di fare il 3% di quello che ha fatto Balotelli fino ad ora. No, d'accordo, però magari vincendo anche molto di più, no? Cioè lui dice che si permette di fare troppo, si permette cose che tuo marito non sarebbe mai permesso di fare, troppa libertà. Ma nessun grande calciatore si permetterebbe di fare. atteggiamenti, comportamenti, cose di questo. Però scusami Martina, adesso restando all'ultima cosa di Balotelli, cioè questo tweet che ha fatto sulla camorra, uno perché gli deve affibbiare? Ma perché è vergognoso, Parenzo? Perché uno gli deve affibbiare il marchio di simbolo anticamorra? Perché il calcio è un simbolo, è andato a giocare su un terreno che tra l'altro è stato sequestrato e ridato alla civiltà, alla camorra, e il calcio è un grande aggregatore di simboli positivi, e quindi se tu sei un simpatico e bravo giocatore miliardario e ricco e sei un simbolo per molti giovani, che ti costa dire due parole contro la camorra? E questo è il fatto. Condividi questa cosa, Martina? Ti costa mettere la sveglia ed andare ad incontrare il Papa come ha fatto tutta la tua squadra tranne te. Se sei un simbolo devi dare il buon esempio. Cioè per i nostri figli è difficile poi far passare gli atteggiamenti di Balotelli. Ma perché è un cattivo esempio? Perché è un cattivo esempio? È un bullo. Perché ne fa troppe, perché gliene si permette, ma non è colpa sua e di chi gli permette di farlo, perché torniamo sempre lì, no? Ma non lo so, a me è l'unica cosa, c'è qualcuno che gliele fa fare anche. Io l'unica cosa che ho trovato di una volgarità pazzesca è stata, però ognuno fa quello che vuole poi nella vita, tu non so se l'hai vista Parenzo, una si è fatto fotografare nella sua casa nuova che ha costruito vicino a Brescia, questa cosa pazzesca in cui c'era a un certo punto una mega fontana che spuntava fuori con la scritta MB credo, col numero 45, non mi dico, una cosa terribile, una fontana che spuntava. Mi dica la verità, dimmi la verità Martina, è una cosa di una Balotelli quando lo vede è di una volgarità pazzesca, diciamola tutta, dal punto di vista estetico, no? No, io non mi metto a giudicare il suo il gusto nelle sue scelte di come si veste, delle macchine che ha, assolutamente. Io più sull'atteggiamento, più sul carattere, su questi comportamenti che li trovo un Poi sulla camorra che ha fatto di male, secondo te? Doveva stare al gioco oppure non doveva nemmeno scrivere, non doveva fare nulla? Come fa male sto ragazzo? Poi lui dice sempre, ma ce l'hanno tutti con me. E perché? Chieditelo come mai ce l'hanno tutti con te. Cioè, non è con il cameraman 2 o 3 giorni fa, anche lì. Mio figlio prima mi chiedeva, perché cosa ha fatto? Perché è stato maleducato? Ma in che senso è stato maleducato? Nel senso che non ci si rivolge così alle persone, soprattutto che sta facendo in quel momento un servizio e un lavoro. Senti, mi spieghi una cosa, come si fa? Siccome i calciatori spesso soprattutto quelli che sono considerati dei belli eccetera, spesso si mettono in come avete fatto a resistere tutto questo tempo con Billy? Ma io guardo, è una cosa pazzesca, è un caso più unico che raro. 18 anni che sto insieme al mio marito, sono molto felice di aver costruito con lui una famiglia e perché alla fine siamo comunque due persone molto molto normali nella stranezza della nostra normalità. Parenzo, sai, so che per te no. Per me è musica questo. Per te è musica, Io non ci riuscirei, devo dirti la verità. Non ci riuscirei perché sei in un'altra squadra o perché non ci riuscirei, perché 18 anni è una cosa pazzesca. A condividere una vita, ma 18 anni è una cosa pazzesca. Bella. Sai chi assomiglia? Capace di cambiare fidanzato, uomo, donna o moglie. È troppo facile. È bello, certo. Comunque sai chi assomiglia a Martina Colombari, Parenzo? Ci ho pensato prima, io penso sempre alle somiglianze con le persone. Martina Colombari. Sì, d'accordo, quello non c'è dubbio. No, penso sempre alle somiglianze con persone della politica, perché noi spesso ci occupiamo di politica. Alla Mussolini? No, che alla Mussolini, ma smetti, la Mussolini. Allora, alla Moretti un po'. Un po' assomiglia alla signora Moretti. No, sì, l'hanno detto, lei conosce la signora Moretti. La Moretti. Voi mi volete punzecchiare da buona zanzara. No, ma quella la Moretti del Partito Democratico, una bella ragazza, mica ho detto che è brutta, Cioè, ci mancherebbe. È un po' più bassa di lei, diciamo. Cos'altro avete detto su Miss Italia prima che non sono riuscita a seguirvi? No, nulla su Miss Italia. Una manifestazione totalmente inutile, però comunque. Ma inutile. Ma secondo voi la Boldrini veramente pensava quelle cose o era per spronare la Rai ad avere qualche idea in più per riuscire a riportare il programma di Miss Italia come lo era, non so, 20 anni fa quando lo vinsi io? Era il secondo programma come ascolti, come a proposito, ma mi sa che sì, vabbè, ma i tempi cambiano, infatti adesso però è stato ridotto. Bisogna aggiornarsi. È stato ridotto a una voi serata. Ma l'aveva veramente con queste povere Guardi ragazze? Che casualmente c'è la Boldrini a 8:30. Sentiamo un po' la Boldrini a 8:30. I loro comportamenti o alcuni dei loro comportamenti in aula. È vero questo e che cosa No, intanto loro? Le decisioni che vengono prese collegialmente. Oggi c'è stata la giunta. Vabbè, sta parlando dei 5 Stelle, c'è prima ha detto che le ragazze di Miss Italia sono divertenti, quelle che hanno detto né nude né mute, per risponderle. Vabbè, ma ha sempre questo atteggiamento un po' di posa la Boldrini, immersa ma nel ruolo. Per carità, a tutti andrebbe bene che ci, cioè, anche quando aveva attaccato il discorso delle pubblicità, no, che nel resto dei paesi, negli altri paesi del mondo non avremmo mai visto una donna che ma non è vero. Vogliamo la parità dei sessi, va bene, ma non è meglio invece di cercare una coalizione col mondo maschile? Cioè, non facciamoci la guerra uomini con donne, i computer agli uomini, la passabarilla alle donne. Cerchiamo di mischiare un po', una volta vado io al computer, una volta vai tu in cucina, cioè cerchiamo anche di mediare questi schieramenti. Ma che sì, la donna, vabbè, non ma deve infatti più donne stare uomini, in cucina. Ma sì. Io sono felice di portare il pancione e di essere mamma e di essere moglie. Va bene, grazie, buona serata, qua. Ciao, a presto, ciao ciao. Anche ciao a voi. Ciao ciao. Arrivederci. Giuseppe da Torino, buonasera. Buonasera. Dica, dica. Buonasera Giuseppe, buonasera David. Volevo chiedere a David, finalmente si è sbottonato, ha lasciato da parte il buonismo per aggredire una povera Salma. Povera tra virgolette. No. Io non ne faccio un problema di razzismo, però domando a David, come mai quando un tedesco spara degli ebrei, è un bastardo, deve morire, brinda la sua morte, eccetera, eccetera. Mentre quando una persona di colore prende un piccone e va in giro per Milano a spaccare le teste, ma quello che c'entra su... è un buonista. Ma sono due cose diverse, ma quello ha tutta un'altra storia. Sono due cose diverse. Ma quello ha tutta un'altra storia, dai, su, ha tutta un'altra storia, quello là è un caso... Ma certo che sono due storie diverse, però sempre hanno ammazzato. Sì, ho capito, ma sono ma lei vuole mettere sullo stesso piano, vuole mettere sullo stesso piano un capitano dell'SS e un pazzo che va in giro ad ammazzare tre persone con l'ascia, su, dai. Assolutamente no. Allora? Però se uno è un buonista sempre, lei capisce e comprende sempre. Se uno, io ripremetto, per me devo andare sulla sedia elettrica entrambi. Vabbè, secondo sulla sedia me elettrica è le mie idee. Vabbè, lei vuole la sedia elettrica, ecco. Un attimo solo, un attimo solo. La richiesta è stata accettata. Salvatore da Padova. Chi è stato presentato? Sì, che ne so, Salvatore. Buonasera. Allora, io sono un vostro ascoltatore assiduo. Ho da rimproverarvi la regola di far intervenire massimo una volta al mese. Un attimo. Pronto? Mario? Chi è che è? La Zanzara. Mario Balotelli? Chi è che vi ha dato il mio numero di telefono? Beh, no, ma ce l'avevamo, cioè abbiamo i numeri privati qui. Ma... Sì, siete sempre voi giornalisti che rompete le scatole. Ma no, ma che giornalisti rompiamo le scatole? Ma ti chiede Parenzo come stai? Come stai intanto? Chi è che è? Non sento. Parenzo, conosci Parenzo? Come stai, caro? Come stai intanto? Io sto benissimo. Questo meno male. Hai sentito che ha detto c'era Colombari prima? Te lo riferisco, ha detto che fai delle cose, non sei di buon esempio, insomma, per i ragazzi. No. Colombari, moglie di Costa. Farebbero meglio stare zitti. Anche la Colombari stia zitto, dicono che sono imbecille, ma se poi si sentono queste cose. Poi siete voi giornalisti che fate sì che si parla sempre male di Balotelli. Ma no, ma noi siamo giornalisti. È anche moglie di un mio amico, grande cacciatore del mio. Ho capito, questo non va bene. Sei discolo. No, scusami Mario, però voglio dire una cosa, perché non hai voluto perché hai scritto quel tweet? Cioè, è come se tu avessi detto no, io non voglio diventare simbolo anticamorte. Sempre con questa storia mi avete rotto però, Mi avete rotto, io non faccio simbolo anticamorte, ma chi è che ha detto questa cosa qui? Voi lo dite, gli altri io non ho detto niente. Sei discolo, sei. Sì, ma voi state prendendo il giro, a me non ne frega niente di partecipare a questa discussione simile. Vabbè, dunque? Ha abbassato, vabbè. Riccardo da Trapani, vabbè, per un attimo siamo riusciti a beccare Balotelli prima della che non gioca stasera. Riccardo da Trapani, su, dai. Buono. Salve Cruciani, volevo semplicemente dirle che io ho la fortuna di avere sposato figlia di un martire delle Fosse Ardeatine. Sì. E in questi giorni mio suocero ha discusso insieme a me e ad altri questa vicenda di Pribiche. Sì. Ecco, mio suocero perdona Pribiche, volevo dire questo e sono orgoglioso di avere questa persona accanto. Ma quello sono affari suoi, insomma. L'ho capito, però so che lui ha sofferto perché non aveva, non ha avuto la possibilità di avere il padre. Ma quello, per carità, va benissimo, ognuno poi privatamente può esprimere quello che vuole, cioè lui l'ha perdonato, siamo tutti contenti che l'ha perdonato, però questo non è che assolve Pribke in qualche modo, eh. Vabbè, ci sentiamo domani 18:30, ciao. In questa casa ci avevamo, per dirtene una, 3 utenze telefoniche, ora ne abbiamo una. Silenzio la vecchia. Avevamo 2 macchine, di cui una importante, una Mercedes, siamo con la piccola Panda, è un motorino. Silenzio la vecchia. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Dai.